Giulio, sì, sì. Giulio, eccomi qua. Stavo dicendo. Vabbè. Per tutto il resto va bene, Giulio, vai. Ok, sì, poi per tutto il resto va bene. L'unica cosa che non va bene oggi, perlomeno, televisore grande di che avevamo in tavernetta ha fatto il monello oggi, si sente l'audio ma non c'è più l'immagine, e dunque ne ho tolto uno dalla mansarda, ne ho tolto e l'ho portato giù provvisorio. Adesso domani magari dovrò comprare un televisore nuovo per la cucina, devo comprare già. Speriamo bene, sì, che tra gomme di macchina, prima le gomme alla Ford, la Eco Sport, 290 euro, due gomme anteriori, poi devo mettere sempre domani due o quattro gomme alla C3, altri soldi, il preventivo che mi hanno fatto è 260 euro, però non so che marca mi danno, secondo che marca è, preferisco spendere di più e mettere marche gomme come si deve, buone. Per cui adesso si è aggiunto anche il televisore, evviva! Così almeno la pensione di un mese se ne va così, o già. Vabbè, poco male quello là. Sì che si hanno per pagare, non è grave, dai, non è grave. E le spese ci sono sempre, poi mi è arrivata anche la tassa bondezza, 200 euro. Sì, 200 euro per me è meno della metà, io sono quasi 500 euro di tassa mondezza, per l'esattezza 480 euro, ti puoi immaginare già, è quella anche più 219 di acqua, la luce non lo so, ancora quella non è arrivata, più 42 di telefono di casa e altre 40 di telefono del magazzino Sassari. Queste sono spese fisse, giù. Ecco, va bene un mutuo, quelle spese lì ce le hanno tutti, è normale, sì, tu paghi di più perché siete di più voi siete in quanti siete? In 3, 4, e io sono da solo, capito? Quindi faccio meno modesto. Sì, beh certo, è in base anche ai metri quadri, viene pagata la mondezza, viene pagata in base ai metri quadri della casa, eccetera. E vabbè, interessante avere salute, poi i soldi vanno e vengono, non c'è problema già. Infatti come hai detto tu, interessante che ci siano i soldi, quando devi pagare è interessante avere, poi quando se ne vanno pazienza, intanto la pressione è matura sempre, da un mese all'altro c'è sempre, perciò no, non c'è problema. Poi qualche gruzzoletto da parte in caso di necessità c'è sempre, per cui va bene così già. Prima di la salute. Un attimino, siete palla in porta. Già, ti ho mandato due video, così ti ascolti un attimino. È giusto per farti capire come ti ascolto io qua. Sì, allora, dopo vado a vedere perché c'è il telefono in carica in cucina. Dopo vado a vedere, tanto so per uscire adesso, almeno un quarto adesso me ne vado. Vabbè, comunque lo so, Tino, uno magari ti sente bene, altro ti sente male, con i baracchini è così, perché tu stai ascoltando con un apparecchio professionale, io sto parlando con un baracchino, quindi tra baracchini si sente bene, con un apparecchio professionale che è più sofisticato, proprio legge tutto, come veramente, capito? Guarda, ti dico la verità, ma allora io adesso ti sto ascoltando con 450 e ti ascolto bene. L'unica pecco che hai, non quanto gli uccellini, che gli uccellini sono spettacolari e escono meglio di te, non per vantarli, però credimi, si sentono abbastanza bene. Hai un rumore di ventola molto molto forte che va a incidere molto sulla tua modulazione, e in banda quello proprio te la sporca, capito? È l'alimentazione, guarda adesso. C'è lo stesso, ce la sente molto. E allora il baracchino, quello da base, quello di Luis. Ecco, adesso no, adesso invece non ce l'avevi. Adesso ce l'ho, guarda. Esatto. È Ruiz, è Ruiz che è l'alimentatore, del Ruiz che fa questo rumore qua. E praticamente io lo accendo per scaldare, capito? Perché se no si rovina. Ho capito, però Giulio, dammi conferma, ma adesso ha migliorato la giornata, la notte. Ma io sinceramente non sentivo, perché non ha certamente la sensibilità dell'apparecchio che hai tu, Dino. Mio ad esempio un baracchino, anche che quello non ha la sensibilità di quello che hai tu, cioè per sentirlo io bisogna che sia una cosa abbastanza consistente come rumore. Diversamente, se no io lo sentivo bene già, nella verità, Tino. A me come mi senti piuttosto, Tino? Bene mi senti? Perfetto, perfetto. No, però Gianni, fagli quella adesso, così mette un pochino l'orecchio più in allerta. Giulio, ascolta Gianni. Gianni, tu fai quel passaggio che hai fatto con Royce, accendilo e spegnilo. Nello stesso tempo parli e così si accorge della differenza. Oppure lasci solo la porta antemuta e vedrai cosa succede. Guarda Giulio, adesso sto parlando con il Royce attaccato. In questo momento lo spengo. Sì, è vero, è vero. Allora, mentre parli riesci a coprire quel rumore, quel ronzio che c'è, un leggero ronzio di alternata. Appena invece fai interruzione della parola, allora si sente. Allora così l'ho sentito. Ecco perché non lo recepivo io. Per il semplice motivo che tu ci parlavi e mi coprivi il rumore, Gianni, sono lì. E io non lo so cosa fare. Ma si attaccava a 10 volts e non lo fa più. Perché usa la corrente dell'alimentazione, quindi non lo fa. A meno che sia la pentola dell'alimentatore. Sì, anche quello, può essere quello, infatti, può essere quello, magari il condensatore dell'alimentatore del baracchino può essere un pochino in avaria e allora non filtra bene e si sente quel rumore, sarà quello. Bene, bene, comunque, io ancora il mio, io sto andando con un alimentatore da 7 ampere. Sto andando, ho anche quello switching che è di 30 ampere, però non lo utilizzo proprio perché c'è la ventola, perché se no attraverso il microfono che uso si sentirebbe la ventola e allora preferisco usare l'alimentatore da 7 ampere, che va benissimo, che ne avrebbe in realtà avrebbe 9 di spunto ma 7 fisse continue. Ma a me mi battono 7 ampere, mi battono più che validi per il baracchino che ho io, l'alimenta benissimo, non c'è problema, o Gianni. Vai Tino. No, sono entrato giusto per fare capire un po' la differenza di quello che io ascoltavo, ecco perché dicevo non lo sento bene in banda, perché quel Ruiz, già, credimi, ti dà mattana, in banda è micidiale, lo sento in una maniera impressionante e non riuscivo a capirti neanche come stavi modulando. Va bene, no, sono entrato giusto da fargli il video a Gianni perché mi stavo allontanando, poi adesso glielo mando, cioè magari se non crede a quello che gli stavo dicendo io per come lo ascoltavo, e quindi gli ho mandato due video. Vi saluto che mi devo allontanare, dai, ci sentiamo nei prossimi video, speriamo al più presto, magari anche domani, e così almeno ci scambiamo quattro chiacchiere, ok? Rilancio a Gianni, aspetto i saluti e poi vado via. Vai Gianni. Ma figurati, non c'era manco bisogno di mandare i video, ci credo, non c'è problema. Dai, ti saluto, alla prossima, stammi bene e buona continuazione di serata, ciao. Ok, ciao Tino, ci sentiamo alle prossime, grazie ancora per la chiacchierata, è stato un piacere, dai, alle prossime. Stasera siamo stati bene a fare una chiacchierata, dopo ti mando quella lista delle persone di gruppo della Sardegna, solo della Sardegna, gli altri, quelli del gruppo nazionale non mi interessa, anche perché ce n'è solo un'infinità e poi quelli non li conosciamo, a noi ci interessa conoscere i nomi della Sardegna che fanno parte di quel gruppo. Dopo ti mando la lista, ti mando, perché tu in questo momento non ce la puoi avere, perché è una lista che è stata pubblicata nella chat del gruppo Otino, sicché dopo te la mando, così te la guardi con comodità. Va bene, già, e anch'io guardo, dai, che è arrivato. fatto mio genio, non è arrivato, per cui te dovrò lasciare anch'io già. Mi dispiace, però adesso non è che posso lasciare il mio genio da solo qua, con il resto della famiglia. Ciao Gianni, grazie per la chiacchierata, speriamo di risentirci presto, dai, alle prossime. È stato sempre un piacere ascoltarti e spero di riascoltarti molto presto. Ciao Gianni, ciao. Chiudo anch'io, ciao, ascolto fino e poi chiudo. Ciao Giulio, mi ha fatto piacere anche a me, dai, in realtà che ci ho pensato l'altro giorno, sono da tanto che non sento Giulio, ci ho pensato proprio l'altro giorno, ho detto speriamo che stia bene, non ti sentivo più, quindi ho pensato anche, diciamo, che lo stessi bene. Va bene, dai, ci sentiamo, una buona serata, grazie per il consiglio e buona continuazione. Ok, grazie a te di nuovo Gianni, alle prossime, dai, ci sentiamo, ciao ciao. Comunque ci sono tutti i giorni in frequenza, tante volte la mattina e tante volte la sera, non c'è problema. Però ripeto, quando c'è propagazione faccio il giro dei canali alla ricerca di collegamenti, poi quando non sento nessuno chiaramente cosa ci so fare davanti, ascoltare il rumore di fondo non mi va. Va bene, ciao di nuovo Gianni, alle prossime, ciao, grazie ancora. Ciao ciao.